Il presidente Berlusconi, rendiamo onore al merito, è uno che quando vuole riesce a farsi capire benissimo. Non sarà quello che si dice la bocca della verità, nel senso che i suoi discorsi sono spesso finalizzati al perseguimento di un interesse personale o di parte. E di fronte all'interesse in questo mondo imperfetto non c'è verità che tenga, ma nel rendere chiaro a chiunque il proprio pensiero, o almeno quella parte del suo pensiero che desidera rendere chiaro, non c'è proprio nessuno che lo batta. Anche questa naturalmente è una delle componenti importanti del suo successo. I molti cittadini che l'hanno votato hanno visto nella sua apparente franchezza un salutare antidoto alle complesse ambiguità semantiche che caratterizzavano le comunicazioni politiche nella Prima Repubblica, quelle a cui sono attaccati, tanto attaccati anche oggi, coloro che ne hanno raccolto l'eredità. Su chi si ricorda ogni tanto delle convergenze parallele, del compromesso storico e di analoghe fumisterie, la sana improntitudine di uno che non si vergogna di dichiarare che il suo obiettivo oggi è quello di salvare l'Italia dal comunismo o di sostenere che i magistrati che hanno indagato sulla pubblica corruzione hanno scatenato nel paese una guerra civile, fa sempre un certo piacevole effetto. È per questo che siamo restati tutti piuttosto delusi nel vedere quel mago delle comunicazioni infilarsi a capofitto nelle ambiguità di cui gronda un passaggio ormai celeberrimo del suo discorso di domenica scorsa al congresso della Lega Nord, quello per intenderci dei lunedì sera. Quei lunedì sera, come ha spiegato il premier ai delegati Padani, dopo aver ricordato i consigli della mamma e lodato le virtù salutari della polenta Iosbus, quei lunedì sera che lui una volta dedicava alla moglie, anzi espressamente all'amore. E fin qui naturalmente passi, l'accenno non sarà stato forse di buon gusto, l'usanza di dedicare all'amore un giorno della settimana è sempre quello, non rientrerà esattamente nelle manifestazioni canoniche della passione romantica. Ma i leghisti, si sa, sono gente di bocca buona e l'idea che un uomo di quell'età, uno che in fondo è già nonno, anche se non lo va a dire in giro, trovi ancora il tempo e le energie per dedicarsi all'amore, non può che fare una buona impressione. L'ammirazione, è più o meno tinta di invidia della virilità del capo, è sempre stata diffusa in certi settori del nostro paese e molti statisti storicamente non sono stati alieni dallo sfruttare quella tendenza. Tanto per citare due figure che non mi sembrano irrilevanti sull'albero genealogico dell'attuale maggioranza di governo, Mussolini faceva filtrare con una certa liberalità le notizie sui suoi adulteri, né a Craxi dispiaceva troppo che si sussurrasse magari a capocchia sulle sue presunte amanti. Non per niente, per indicare il possesso di eminenti capacità decisionali e di una fermezza ideologica superiore alla media, si è solito riconoscere a quelle analoghe figure, con una metafora forse troppo colorita che non mi permetterò in questa sede di citare verbatim, il possesso di taluni attributi tipicamente maschili. Ma poi il premier ha aggiunto che da quando ha dato retta alla mamma che le esortava a riprendere i rapporti col Bossi con la frase «Dag un basin e dica che mandi mi», scusate la pronuncia, le cose per lui sono cambiate. L'agenda del leader padano, con tutto da fare che aveva, era straordinariamente impegnata. In pratica, guarda che sfiga, aveva libero soltanto il lunedì sera. E il povero Berlusca non ha potuto far altro che abbozzare, da allora quel giorno lo dedica all'Umbertone. Il suo lunedì sera ormai si chiama letterale Umberto Bossi. I congressisti lì per lì hanno applaudito da spellarsi le mani, ma poi chissà, ci avranno anche ripensato. Le delegate magari si saranno chieste come l'abbia presa la Veronica Poveratusa. E i maliziosi, perché ce ne sono purtroppo anche a nord della linea gotica, i maliziosi avranno persino potuto supporre che, visto che i Basin sono come i Sciresche, l'una tira l'altra, tra i due leader sia scattata, per così dire, una scintilla non esattamente politica. Niente di male, figuriamoci con i tempi che corrono, ma insomma, chi l'avrebbe mai pensato? Scherzo, naturalmente, ma in quel discorso un non so che di ambiguo lo si sentiva proprio. Ed è per questo, suppongo, che ha tanto colpito i commentatori. Io sinceramente non saprei divinare che cosa si proponesse con precisione il Presidente del Consiglio. probabilmente avrà voluto far intendere che lì c'è un dovere qual è, e lui è sempre stato disposto a ogni sacrificio. E poi, rendendosi conto del fatto che non è un complimento spiegare a qualcuno che frequentare il suo leader carismatico rappresenta un sacrificio degno di nota, avrà calcato, come gli capita spesso, la mano, cadendo fatalmente nell'ambiguità. Avrà, insomma, ceduto a quello che a mio avviso rappresenta il suo peggior difetto caratteriale, quello da cui massimamente deve guardarsi in vista della lunga carriera politica a cui aspira, e che non è, credetemi, il conflitto di interessi, ma è la piacenteria. Quella rescheia che Teofrasto definiva un modo di fare che tende a dar piacere con uno scopo che non è dei più onesti, ma che in Berlusconi, credo, sia fatta fine a se stesso, a prescindere da qualsiasi finalità adulatoria o di interessata captatio benevolenzie. Ed è un difetto molto pericoloso, perché il conflitto di interessi lo si potrà anche governare un giorno o l'altro con una legge adeguata, non questa, Ma la piacenteria, in uno statista dotato di tanti poteri quanti se ne sta prendendo lui, può portarci a delle conseguenze assolutamente catastrofiche. È stata questa tendenza in fondo a metterci nei guai mesi fa con l'intero mondo islamico e a spingerci in seguito a un intervento diretto nel conflitto afghano che nessuno ci aveva richiesto. Un uomo così, pur di compiacere i suoi interlocutori del momento, può assumere senza neanche rendersene conto degli impegni di cui potrebbe in seconda istanza dispiacersi assai. E noi, naturalmente, con lui. Sia come sia Berlusconi un record l'ha conquistato. È stato il primo politico di cui mi sovvenga in tutta la storia recente a parlare in pubblico, sia pure per accenni discreti, della propria vita sessuale. E non vale citare gli esempi del Pio Formigone o dell'intrepido Alosi Bindi, che in anni più recenti hanno trovato il modo di dichiarare di non averne alcuna. E costoro, a parte il fatto che riservavano simili confidenze alle interviste e non alle platee congressuali, lo facevano soprattutto per testimoniare un adeguamento, in un certo senso obbligato, a una normativa ideologica che avevano pubblicamente accettato. E poi una cosa sono le ricusazioni e un'altra le affermazioni in positivo. Il fatto è che il Presidente del Consiglio, come dicevamo all'inizio, non è uomo che soffra di inibizioni. Quando vuol dire qualcosa non ci sta da zigogolare sopra, la dice e amen. In questa particolare forma di decisionismo, in questa indifferenza alle convenienze che non convengono a lui, consistono a ben vedere i suoi veri attributi.